Allora, Gianmario, apicoltore, tu cosa ci fai qui stasera? Ma sto vendendo il miele. Miele? Com'è il miele che produci? Certificato Neurogreen. Certificato Neurogreen. C'è vita dopo capitalismo? C'è vita su Marte. Anche su Marte? Forse. Come ti sembra il party stasera? Sembra bello. Ok. Amidst the grass.